Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il presidente della regione Fedriga è in visita istituzionale negli Stati Uniti, incontra il presidente Biden al galà degli italo-americani. Il Friuli Venezia Giulia scelto dalla National Italian American Foundation, regione d'onore per il 2024. Domenica autunnale con piogge intense, in particolare nelle valli del Natisone, temperature abbassate a Trieste, Bora a 90 km all'ora, oggi a 70, meteo in miglioramento ma a metà settimana atteso il ritorno delle piogge. In fuga dalla polizia, cade dal cornicione al terzo piano di un hotel vicino alla stazione ferroviaria a Trieste, ferite non gravi per un trentenne di origine albanese. Anno impegnativo per la Protezione Civile regionale, che ieri ha organizzato un open day per far conoscere un sistema collaudato da quasi 50 anni. 21 i riconoscimenti assegnati ieri a Grado in occasione del premio regionale Solidarietà, persone, associazioni ed aziende che si sono distinte nella vicinanza e nel supporto al mondo della disabilità. A Montereale Valcellina, al 100° congresso della Società Filologica Friulana, ospite d'eccezione lo storico Carlo Ginzburg, autore degli studi sul mugnaio eretico Menocchio. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne è l'obiettivo delle consulte femminili italiane riunite oggi a Milano. A moderare l'incontro la presidente della sezione triestina. Nonostante il meteo avverso, oltre 5.000 presenze per le aperture in Friuli Venezia Giulia per le giornate Fai d'autunno. Tra i luoghi più visitati, il borgo di Santa Margherita del Gruagno a Moruzzo, gli affreschi di Cividale, il municipio di Trieste e diversi percorsi a Caneva. Sport basket, ieri impegnate tutte e tre le squadre regionali, prima sconfitta per la Pallacanestro Trieste a 100, anche Cividale battuta a Piacenza, vince solo Udine al Carnera contro Chiusi. Dopo la triestina, anche la Pallamano Trieste resta senza campo. Il comune decide di sospendere gli allenamenti al Palasport di Chiarbola per la prossima settimana. Un fatto gravissimo, risponde la società. Un cordiale buongiorno da Elisabetta Zaccolo e da Daniele Lettigi in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Prima di entrare nel vivo delle notizie, subito uno sguardo al tempo. Il cielo è poco nuvoloso a est, variabile a ovest. Le temperature registrate alle 6, a Trieste 12 gradi, vento est-nord-est, Bora 40 km orari, con raffiche che hanno raggiunto quasi 70 km orari. Il mare è mosso con una temperatura di 22 gradi. A Udine Gorizia 9 gradi e mezzo, a Pordenone 7 gradi e 5 decimi, a Tarvisio Tolmezzo 2 gradi e 5 decimi, a Piancavallo e Forni di Sopra 1 grado e mezzo, a Sappada meno 2 gradi, sul Monte Lussari meno 3 gradi, sul Monte Zoncolan meno 1 grado e 5 decimi, a Grado e a Lignano 12 gradi e 5 decimi. La temperatura del mare in entrambe le località è di 18 gradi. Queste invece le previsioni per oggi. Cielo poco nuvoloso, temperature minime in deciso calo. Soffierà bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa. Sul meteo avverso di ieri torneremo fra poco, ma intanto parliamo dell'incontro tra il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington, con l'ufficializzazione del Friuli Venezia Giulia quale regione d'onore 2024 da parte della National Italian American Foundation. Un incontro, ha commentato Fedriga, che per noi è motivo di grande orgoglio. L'incontro con il presidente Biden è avvenuto in occasione del galà per il 48° anniversario della NIAF. Ogni anno l'associazione collabora con una regione in Italia per promuovere la sua cultura e le opportunità di investimento nel nostro paese. Le azioni messe in campo in questa missione e in quelle precedenti, ha proseguito Fedriga, hanno permesso di raggiungere questo importante risultato, che rappresenta un'occasione di grande rilevanza per presentare le nostre eccellenze ad una platea così vasta e qualificata e rafforzare i rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Italia, in particolare con il Friuli Venezia Giulia. Oggi Fedriga incontrerà Daniel Ricchetti, vice rappresentante speciale per la diplomazia dello Stato federale, Robert Lee, direttore dell'Ufficio dell'Unione Europea degli Affari. Gli affari regionali, Kimberly Bassett, segretaria del Distretto Columbia, e l'ambasciatore della Repubblica di Slovenia negli Stati Uniti, Itztok Mirosic. Successivamente Fedriga proseguirà il viaggio verso New York. Torniamo invece al tempo. Previsioni rispettate. Ieri è arrivata l'ondata di maltempo attesa, con piogge anche intense e temporali che hanno interessato molte zone della regione. A essere maggiormente colpita la fascia orientale, in particolare le valli del Natisone, Bora a 90 km all'ora a Trieste, nuove piogge previste da metà settimana. Dal 24 settembre la pianura e la costa erano rimaste senza pioggia. Un periodo così prolungato di siccità è un'eccezione, una delle tante di questi anni, se si considera che ottobre è, dopo novembre, il mese più piovoso dell'anno. La breve ondata di maltempo ha colpito maggiormente la fascia orientale, valli del Natisone, la provincia di Trieste e in parte l'Isontino, risparmiando la fascia prealpina centro-occidentale, il Pordenonese. Nella zona montana più vicina al Cadore non è piovuto, mentre sul Lussari è caduto qualche fiocco di neve. Ci sono state fasi di precipitazioni molto intense, oltre 30 mm di pioggia caduti in un'ora a Pulfero, 55 in tre ore a Sgonico sul Carso Triestino. Sulla costa le raffiche di bora hanno raggiunto i 90 km orari. Capitolo a parte è la situazione del mare, il dato più anomalo di questa prima metà di ottobre. Nonostante l'azione della bora che fa scendere la temperatura, con 23 gradi rimaniamo ben al di sopra della media del periodo. Un mare ancora così caldo è un'incognita, sostengono i previsori dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Vedremo cosa accadrà con il passaggio delle perturbazioni autunnali. E dopo tre giornate di tregua, con cielo poco nuvoloso, è previsto un peggioramento fra giovedì e sabato, con piogge più diffuse e persistenti. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora la vicenda del cittadino albanese di 30 anni precipitato dal terzo piano di un albergo a Trieste mentre tentava di sfuggire alla cattura della polizia. Su di lui pendeva un provvedimento di espulsione. È ricoverato all'ospedale di Catinara con numerose fratture, grave ma non in pericolo di vita. Un'automobile parcheggiata in strada con il vetro anteriore distrutto testimonia il rischio corso nella notte da un trentenne albanese. Intorno alla mezzanotte ha preso una stanza all'Hotel Italia in via della Geppa, non lontano dalla stazione ferroviaria di Trieste. Un'ora più tardi si presenta in albergo la polizia per notificargli un ordine di espulsione in quanto irregolare sul territorio italiano. Il giovane, che stava facendo una doccia, viene preso dal panico, risponde agli agenti che si deve vestire. Invece tenta di fuggire dalla finestra della sua stanza, l'ultima in fondo al corridoio del terzo piano. Non riesce ad aggrapparsi al cornicione e cade dritto sull'automobile in strada. Ora è all'ospedale di Cattinara con fratture multiple, ma non rischia la vita. Parlava italiano con qualche imprecisione, racconta il direttore dell'Hotel Italia, Guerrino Lanci. Era vestito normalmente con i jeans e una giacca. L'unica particolarità è che non aveva con sé un bagaglio. Alla registrazione in un albergo scattano sempre i controlli della questura, chiarisce Lanci, per cui l'intervento in caso di irregolarità è sempre molto rapido. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Scoprire e conoscere il cuore della macchina organizzativa della Protezione Civile Regionale, la cui centrale si trova a Palmanova. In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, ieri è stato organizzato un Open Day dedicato ai cittadini. È stato un anno molto impegnativo finora, il 2023, per la Protezione Civile Regionale, dal terremoto in Turchia all'alluvione in Emilia-Romagna fino alle grandinate distruttive sul nostro territorio. Tutti eventi che hanno coinvolto, in un modo o nell'altro, la macchina ben collaudata del sistema di protezione civile che in Friuli Venezia Giulia è stato istituzionalizzato per primo in Italia nel 1986 sulla scorta del sisma di 10 anni prima. Una macchina che nel suo quartier generale di Palmanova si è aperta a gruppi di visitatori nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, grandi e piccini, genitori e figli. Ieri eravamo a vedere il FAI, alla Mideria, oggi veniamo qua. Insomma, sono sempre esperienze nuove per lui, che fanno bene anche per noi alla fine. Ma la Protezione Civile è un nostro orgoglio, no? Sono interessato a vedere come lavorano, come si distinguono, come si organizzano. Prima un passaggio nella sala ottagonale e poi nella sala operativa regionale, dove si coordina H24 la risposta alle emergenze sempre più comuni a causa della maggiore frequenza di eventi meteo estremi. Per i funzionari responsabili della sala operativa alcuni periodi possono essere molto intensi e, come molti lavoratori impegnati nelle emergenze, bisogna scendere a patti anche con la vita privata. La funzionaria Nelly Zanette. Abbiamo a casa dei familiari che sanno supportarci e sopportarci, sanno però che lo facciamo con grande passione, quindi il fatto che torniamo a casa stanchi o ci svegliamo alle 3 di notte per venire qua, lo sanno che sanno a cosa andiamo incontro, ma vedono che quando torniamo abbiamo tanta gratitudine che ci torna e questo riempie anche le ore di sonno mancate. Nel corso della settimana i volontari hanno incontrato e parlato con i cittadini nelle piazze di 8 comuni per la campagna Io non rischio. A Torreano, Moemacco e Faedis un'esercitazione per affrontare un eventuale rischio idrogeologico con l'installazione di sacchi sugli argini e recupero di feriti, formazione e prevenzione di cui si spera non ci sarà realmente bisogno. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora andiamo a Grado, dove ieri sono stati assegnati i riconoscimenti del premio regionale Solidarietà. La forza vitale della libertà nelle note del coro Free Voices apre il premio regionale Solidarietà della Consulta Disabili Friuli Venezia Giulia e proprio alla libertà delle persone si richiama l'assessore regionale alla salute Riccardi nell'interpretare lo spirito della nuova legge 16 sulla disabilità. Medaglia d'oro ad Elena Bortolotti di Trieste per l'impegno nella formazione e nel diritto allo studio. Targa d'argento all'azienda BCF di Rivignano Teor per l'integrazione lavorativa, a Primo Fassetta di Pordenone per il lungo impegno e la contagiosa carica umana, all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Trieste per gli obiettivi di inclusione e solidarietà, nello sport all'Interclub Muggia con il basking pallacanestro inclusiva. Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Era disidratato, ma in buone condizioni, il cane da caccia salvato ieri in una zona impervia del comune di Arta Terme da parte dei vigili del fuoco di Tolmezzo. L'animale era bloccato da 4 giorni all'interno di una forra sul versante sud del Monte Lander. La squadra dei vigili del fuoco, dopo aver raggiunto in fuoristrada il bivacco del monte, ha proseguito a piedi verso la cima per circa 300 metri di dislivello. Poi si è calata all'interno del canyon nella zona dei torrioni fino a raggiungere Blitz, il cane segugio bloccato su un terrazzino fra 2 salti rocciosi. I proprietari dell'animale lo avevano individuato con l'aiuto di un drone, ma avevano desistito dall'idea di recuperarlo in autonomia a causa della pericolosità del terreno. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, le condizioni meteo stavano peggiorando e un grosso fronte temporalesco si avvicinava alla zona dei soccorsi. È stato quindi mobilitato un elicottero dei vigili del fuoco. Il cane e parte della squadra sono stati issati sul mezzo e portati al bivacco Lander, dove i padroni hanno potuto riabbracciare Blitz. La Società Filologica Friulana si è ritrovata a Montereale Valcellina per il congresso sociale numero 100 della sua storia e per l'occasione spazio a un ospite speciale. Un traguardo storico per la Società Filologica Friulana al suo 100° congresso sociale, organizzato quest'anno in Friuli Occidentale, nell'auditorium dell'ex centrale idroelettrica di Malnisio, in comune di Montereale Valcellina. Il presidente Federico Vicario. Continua l'impegno della Società Filologica Friulana per la promozione e la valorizzazione di tutti i nostri territori, di tutta la pluralità delle nostre comunità. Questa cifra, insomma, questo 100 è un momento ancora di ulteriore impegno per noi, per dare continuità a questo impegno e per trasmettere quella che è la memoria, quella che è la storia, le tradizioni, l'identità del nostro Friuli anche alle nuove generazioni. Ospite d'onore il professor Carlo Ginzburg, autore degli studi sul mugnaio eretico Menocchio. Menocchio era una personalità straordinaria, un mugnaio che sapeva leggere e scrivere con una originalità veramente notevolissima. E c'era questo elemento di sfida all'autorità politica e religiosa che ha avuto una risonanza diciamo attraverso il mio libro che ogni volta mi colpisce. Nell'occasione è stato presentato anche il volume Montreal, una monografia di 800 pagine a cura di Aldo Colonnello, Paolo Tomasella e Alessandro Fadelli. È un volume che contiene 89 studi, 89 ricerche, 106 autori e fa un po' il punto sulla storia di Montreale dal punto di vista dell'ambiente, dell'architettura, dell'archeologia, dell'arte, della letteratura. È stato un grosso lavoro, ma siamo molto soddisfatti. Malnisio, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Weekend dedicato alla grande bellezza in regione. La 16ª edizione dell'iniziativa Ville Aperte con 9 dimore storiche aperte al pubblico, ma è stato anche il fine settimana delle giornate Fai d'autunno. Quello che si è appena concluso è stato il fine settimana dedicato alle giornate FAI di autunno, fondo per l'ambiente italiano in tutto il Friuli Venezia Giulia, giunto ormai alla 12ª edizione. I delegati e volontari della fondazione hanno messo a disposizione dei visitatori entusiasmo per svelare la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo della regione. Patrimonio sorprendente e inaspettato e che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccoli e grandi storie, culture e tradizioni che sono a pieno titolo il nostro patrimonio e che perciò tutti sono chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, come nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli per scoprirne il valore. Michele Dacol, FAI Friuli Venezia Giulia. Siamo arrivati a oltre 5.000 visitatori, quindi nonostante il maltempo della notte odierna noi siamo contenti perché i numeri, soprattutto quelli di ieri, ci hanno confermato l'affetto delle persone per questa giornata alla scoperta dei tesori del Friuli Venezia Giulia. Tanti visitatori di tutte le età che hanno affollato i 23 luoghi straordinari in 9 comuni del Friuli Venezia Giulia. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Weekend ricco di iniziative anche a Pordenone, dedicato all'enogastronomia del Friuli occidentale, Art and Food, la festa che ha radunato i gourmet, e l'ormai classico Incontriamoci a Pordenone. Una domenica dedicata a famiglie, bambini e ragazzi nelle piazze e nelle vie del centro città. La 37ª edizione di Incontriamoci a Pordenone ha proposto animazioni per i più piccoli, laboratori e intrattenimento in piazza 20 Settembre, piazzetta Cavour e Corso Garibaldi. Ma il cuore della festa è stato il bazar per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni. Mostra mercato scambio riservata agli e alle aspiranti commercianti con i loro banchetti in Piazza della Motta, che ha raggiunto oltre 400 adesioni. Federico Ingargiola è presidente mandamentale per Ascom Confcommercio Pordenone. Incontriamoci a Pordenone riparte post-Covid in una forma sicuramente un po' diversa rispetto al passato, e dall'anno scorso abbiamo iniziato questo programma, questo progetto che è di fatto completamente incentrato nei confronti dei bambini e dei più piccoli. Il bazar è sicuramente un grande punto d'attenzione, 23ª edizione, anche quest'anno un successo importante nonostante il clima che non è dei migliori, e i negozi stanno comunque rispondendo alla possibilità di apertura domenicale. Sicuramente con un sole splendente avremmo avuto un successo ancora più ampio, comunque siamo sicuramente soddisfatti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. In parallelo al vertice del G7 della prossima primavera si svolgerà anche l'appuntamento internazionale del Women 7, un evento teso a monitorare la condizione delle donne del mondo. Per prepararlo, oggi si tiene a Milano un convegno tra le consulte femminili italiane per preparare un documento programmatico italiano centrato sull'obiettivo numero 5 dell'Agenda Europea 2030, raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. Tra le consulte partecipanti c'è anche quella di Trieste, la cui presidente Anna Maria Mozzi modererà l'incontro. L'abbiamo intervistata. In questo convegno si cercherà di preparare un documento per il Women 7 che si farà in parallelo G7 in primavera. Ci saranno 4 workshop, uno che è gestito dalla Consulta Femminile di Milano che riguarda il lavoro e l'economia dal territorio, soluzioni condivisibili. Poi un altro workshop è quello sulla questione della cura, il lavoro invisibile, la famiglia, il lavoro familiare a cura della Consulta Femminile di Verona. Poi uno sulla salute, la salute a misura delle donne, che sarà gestito dalla Consulta di Genova. Di che cosa parlerà invece il workshop che organizzate voi come Consulta delle Donne di Trieste? Noi parleremo del punto di vista femminile nell'abitare lo spazio pubblico, il modo di rendere vivibile la città, in particolare per le donne. Ma dove stanno bene le donne, sta bene tutta la società. E quindi parleremo di sostenibilità, di quella che è la rigenerazione urbana fatta a misura delle donne. Noi a Trieste stiamo facendo una sperimentazione nel rione di Valmaura e c'è tutta una proposta che è partita l'anno scorso che pian pianino, insieme anche al Comune e alla Regione, si cerca di portare avanti per la vivibilità di quella zona, che è la zona di Valmauro, in particolare intorno a dove è il distretto sanitario. Alla fine ci sarà un insieme di relazioni su questi workshop, da cui si tenterà di raccogliere un documento da proporre a quello che sarà il convegno del WI7. Ci spiega in breve che cos'è il WIMEN7? Il WIMEN7 è qualcosa che chiederà, insieme ai discorsi che fanno i grandi del G7, qual è la condizione della donna nel mondo e quali sono le proposte. Ecco, noi vogliamo portare delle proposte che l'Europa, che l'Italia propone all'Europa, perché l'Europa proponga al mondo. È ripartita anche quest'anno la Caregiver Academy, organizzata a Trieste da Casa Viola e dall'Associazione The Banfield, una vera e propria scuola che offre un percorso gratuito di formazione dedicato a chiunque si trovi a prendersi cura di un familiare affetto da deterioramento cognitivo. Gli incontri, cui è possibile partecipare in presenza o anche seguendoli via streaming, si svolgono ogni lunedì alle 17.30 nella sede dell'Associazione di Via Filzi. Quello di questa sera è dedicato alla comunicazione con la persona con demenza, ma per saperne di più su questa iniziativa abbiamo sentito la coordinatrice di Casa Viola, Antonella De Ponte. La Caregiver Academy, o Accademia dei Cura Cari, è una serie di incontri che da qualche anno realizziamo a Casa Viola con l'associazione The Banfield, destinati ai familiari di persone con demenza, per spiegare un po' di che cosa si tratta, qual è la malattia con cui devono confrontarsi e fare anche dei confronti sui modi migliori per dare assistenza alla persona di cui ci si prende cura. Ci sono diversi esperti che trattano i diversi aspetti del prendersi cura di una persona che ha un disturbo neurocognitivo. Qual è il programma degli incontri che iniziano oggi? C'è un programma abbastanza fisso, per cui c'è un primo incontro destinato un po' a una definizione delle demenze, in qualche modo illustra il fenomeno e i problemi associati. Poi invece ci sono degli incontri più specifici, perché c'è un incontro centrato sulla comunicazione con il paziente con demenza, un incontro centrato sulla gestione dei disturbi comportamentali che possono esserci, uno sugli aspetti assistenziali, quindi a che cosa bisogna fare attenzione quando la persona con demenza è in casa e magari non è più in grado di dire se sta bene, quanto sta bene. E infine un ultimo incontro sulla gestione dello stress nel caregiver della persona con demenza. A questo ciclo di 5 incontri poi seguono delle interviste con esperti di diverse parti d'Italia su argomenti un po' più specifici di approfondimento. E quanti sono i partecipanti a questi incontri? La frequenza è variabile, nel senso che ciascun incontro è in qualche modo a sé. Diciamo che noi abbiamo l'anno scorso seguito circa 139 persone. È appena partito il corso di quest'anno, ci sono una ventina di iscritti. Siamo allo sport con il basket di Serie A2. Delle tre regionali impegnate ieri pomeriggio, vince solo la Udine. Prova convincente dei bianconeri al Carnera contro il fanalino di coda Chiusi. Troppa la differenza tecnica tra le due squadre, con i friulani che hanno faticato un po' solo nei primi due quarti. Gaspardo e Alibegovic scavano il solco decisivo a inizio ripresa, portando l'Apu sul più 14, poi è tutta discesa. I toscani non riescono più a riavvicinarsi e i ragazzi di Vertemati vincono per 78-60. Miglior marcatore Gaspardo con 20 punti, buona la prova in regia di Monaldi. I bianconeri raggiungono così il secondo posto in classifica. Sentiamo il commento a fine gara dell'allenatore Vertemati. La partita che ci aspettavamo, una partita molto fisica contro una squadra d'Italia importante che ha dovuto fare a meno anche di un paio di giocatori ed ha giocato spesso molto grossa, riempiendo l'area, non dandoti l'opportunità spesso di correre o di trovare tiri facili. Siamo stati pazienti, abbiamo costruito la nostra partita sulla concentrazione difensiva, possesso dopo possesso, piano piano, fino ad arrivare al massimo vantaggio, che è stato proprio negli ultimi 30-40 secondi. Non era scontato avere questa forza mentale per tutta la partita. Chiaramente si può fare sempre meglio, non ce lo nascondiamo, però si può fare anche molto molto peggio, e quindi siamo abbastanza contenti. Prima sconfitta invece per la Pallacanestro Trieste, che crolla nel secondo tempo a 100. Avanti di 22 punti nel secondo quarto, con un ottimo inizio da 3 punti, 11-18, i biancorossi inanellano errori dalla lunga distanza nella seconda metà, non riuscendo a incidere neppure in difesa. Dopo aver subito la rimonta nel finale, Trieste trova un fortunoso canestro di Brooks, che porta al supplementare, dove però negli ultimi minuti butta via 2 palloni quando la partita sembrava ripresa. Decisivi anche le indecisioni della panchina negli istanti finali. Vince 100 per 94-89. Non bastano 30 punti del solista Reyes. Prossimo turno in casa contro l'imbattuta Fortitudo. Cade anche la Gesteco Cividale. Friulani battuti a Piacenza per 87-72. Dopo una prima metà di gara ottima, le percentuali scendono e gli emiliani trovano in Sabatini l'uomo della rimonta. I ducali pagano la scarsa giornata al tiro dalla lunga distanza, 7 su 25 complessivo con 0 su 5 di Mastellari, soprattutto nel momento decisivo, quando a cavallo del terzo e quarto periodo scivolano a meno 11 con il canestro di Veronesi. Per i ragazzi di Pilastrini, con un redivo propositivo ma poco efficiente, non basta la buona prestazione individuale di Dell'Agnello. E la prossima settimana è derby. Al Carnera, infatti, domenica va in scena Udine Cividale. La Pallamano Trieste resta senza campo. La società ha fatto sapere in un comunicato di aver ricevuto un'email dal comune che impone la sospensione di tutti gli allenamenti al Palasport di Chiarbola per la prossima settimana, vigilia della gara in casa di sabato prossimo contro Sassari per lavori riguardanti il cambio dei canestri che dovrà utilizzare lo Iadran nel corso delle partite casalinghe. Si tratta, si legge nella nota della società, di un fatto gravissimo che avviene nel pieno del campionato di Serie A Gold. Il presidente Michele Semacchi ha comunicato la sospensione di tutta l'attività sportiva, sia quella giovanile, con 7 campionati in corso, sia della Serie A. Il consiglio direttivo ha già fissato per venerdì prossimo un appuntamento con l'assessore comunale allo sport Elisa Lodi. Ulteriori decisioni sul futuro della Pallamano Trieste, si legge ancora, saranno prese dopo l'incontro in comune. Partono oggi i lavori del nuovo polo per l'infanzia Regina Margherita, che sorgerà negli spazi di Piazza 20 Settembre a Palmanova. Il progetto, finanziato con 3.800.000 euro del PNRR, prevede la creazione di una struttura che comprenderà un nido da 40 posti con l'integrazione della nuova sezione lattanti e una scuola dell'infanzia per 3 sezioni, per un totale di oltre 1.000 metri quadri di spazio per i bambini e un grande spazio verde di oltre 2.000 metri quadri completamente interno alla struttura. A partire da oggi e per circa 2 settimane, l'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano sarà interessato da un'attività addestrativa NATO che vedrà la partecipazione di una 60 di velivoli appartenenti a diversi paesi dell'Alleanza Atlantica. Gli addestramenti si svolgeranno negli spazi aerei italiani e del Sud Europa. Si tratta di una esercitazione annuale programmata da tempo che viene ospitata a rotazione da una nazione della NATO. Il comando aeroporto Aviano e il 31esimo Fighter Wing, si legge in una nota congiunta, implementeranno ogni procedura necessaria al fine di limitare eventuali disagi alla cittadinanza. 3 giorni di scambio di buone pratiche e networking nell'ambito del progetto EU for Economic Growth. Questo è l'obiettivo dei lavori che da oggi al 18 ottobre vedranno nel centro congressi di Area Science Park a Trieste agenzie territoriali a supporto delle imprese, parlare dello sviluppo economico della Repubblica della Macedonia del Nord. Ad aprire i lavori Caterina Petrillo, presidente di Area Science Park, Roberto Antonione, segretario generale dell'iniziativa Centro Europea e Vesel Memedi, ambasciatore in Italia della Repubblica della Macedonia del Nord. Iniziamo la nostra rassegna stampa dal Piccolo di Trieste, che come tutti i quotidiani ha in primo piano l'escalation del conflitto in Medio Oriente. Una storia in particolare tocca Duino, un ex studente del Collegio del Mondo Unito, il palestinese Hani al-Safadi, ora ricercatore negli Stati Uniti, racconta della sua famiglia sterminata dalle bombe. Poi la fotonotizia dell'incontro al galà degli italo-americani tra Biden e Federica e il Golfo di Trieste, che sotto stress a causa delle attività dell'uomo, dal porto alla pesca fino al trasporto marittimo e al turismo. OGS e Università di Trieste tracciano la mappa delle aree fragili, mentre i gas serra raddoppiano il rischio di piogge record. Per la pagina della cultura, il racconto di Dino Faraguna su Pino di Buie, l'ultimo custode dell'antico mestiere dello scalpellino. Sotto una fotonotizia sul rischio di un'escalation in Israele, il titolo del Messaggero Veneto di Udine è per le matricole in aumento all'università, con le iscrizioni che crescono del 5%. Tra i corsi più richiesti, ingegneria, economia e DAMS. Un'altra fotonotizia a centropagina è per la maxi esercitazione della protezione civile nelle valli del Natisone. Un richiamo è per la missione negli Stati Uniti del presidente Fedriga, mentre due sono le notizie di cronaca. Il salvataggio del cane ad Arta Terme, di cui vi abbiamo raccontato nel giornale radio, e la morte per un malore di un finanziere mentre era in servizio. Aveva 53 anni. Infine, lo sport, con un'intervista allo psicoterapeuta Rolando De Luca sull'ultimo scandalo scommesse che ha coinvolto il mondo del calcio, e il basket, con l'Apu che batte Chiusi, mentre Cividale esce sconfitta dallo scontro con Piacenza. Le pagine della cronaca cittadina titolano sui tavolini in strada, cambiano le regole, alcuni andranno tolti. Il 31 dicembre scade l'autorizzazione in deroga di occupazione del suolo pubblico, una quarantina ai locali a rischio. L'edizione di Monfalcone e Gorizia del Piccolo ha in primo piano le iniziative culturali verso Go 2025 e il Fai d'autunno, Cripte e Tele. Gorizia svela i suoi gioielli nascosti, sold out le visite alle tombe sotto Sant'Ignazio. A breve nuovi tour tra i quadri del municipio che annoverano nomi come Musich, Crali, Brass. E poi partono i lavori sulle palazzine Ater nel quartiere dello Zocchette, un intervento da 1.300.000 euro per lavori di risparmio energetico. Il regista goriziano Natoli, premiato all'International Film Festival di Manhattan a New York per il corto La Scelta, un thriller di 13 minuti con tre interpreti, e poi la notizia che sarà chiusa per un mese la strada secondaria tra Mariano e Cormons. Iris Acqua deve sostituire le condutture idriche. I lavori inizieranno il prossimo lunedì. Il Messaggero Veneto di Pordenone ha lo stesso titolo dell'edizione di Udine sull'aumento delle matricole all'università. A cambiare in prima pagina sono la fotonotizia, dedicata al successo del bazar dei bambini alla manifestazione Incontriamoci, e due richiami, uno per la falsa partenza per i dissuasori mobili in piazza Sacile e un altro per il documentario sulla casa di riposo di San Vito al Tagliamento, realizzato dagli studenti del corso di laurea in infermieristica, che ha ricevuto un premio a livello nazionale. Il titolo delle pagine di cronaca cittadina invece per il SICAM, il Festival dei Componenti per l'Industria del Mobile, al Via Domani, che cresce ancora, attesi 651 espositori. Sono due i titoli del dorso di Pordenone del Gazzettino. Il primo è per la cronaca, rubava sulle auto, ore furtiva conservata in casa, perquisito un 22enne. Il secondo per la manovra di bilancio della regione, economia in salute, manovra ricca. A centropagina anche qui la fotonotizia per il successo del bazar dei bambini di Incontriamoci a Pordenone con tanti nuovi banchetti. I richiami sono invece per la morte del finanziere di 53 anni, per la proposta del leghista Dreosto. Il Vajont non fu in curia, via quel termine. Per le giornate del FAI il Castello di Caneva fa il pienone e per il centesimo congresso della Società Filologica. A fondo pagina infine lo sport, nel calcio dilettanti San Vitese e Tamai fanno il pieno e nel basket la Horm Pordenone fa trisse, rimane al comando della classifica. Sul dorso di Udine del Gazzettino il titolo sulla manovra regionale passa in alto, mentre quello di centropagina è per una notizia di cronaca di cui vi abbiamo dato conto ieri. Sequestrata e violentata, espulso. Un tunisino aveva rinchiuso un adolescente costringendola a subire atti sessuali e aveva poi colpito un carabiniere per fuggire. Una fotonotizia dedicata agli orsi, parte il monitoraggio a nord-est, mentre a fondo pagina sono queste le notizie di sport. Nel calcio, l'udinese Pafundi torna decisivo per la nazionale Under 19, nel basket Gaspardo guida la riscossa di Udine, pessima prova e brutta sconfitta invece per la Gesteco Cividale a Piacenza. Alcuni appuntamenti in programma per oggi. Ricorre oggi il 6° anniversario dell'attentato che il 16 ottobre del 2017 ha ucciso la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. E proprio da 6 anni Ronchi dei Legionari e l'Associazione Leali delle Notizie promuovono, in occasione del Festival del Giornalismo, un premio a lei dedicato in accordo con la famiglia e con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. Questa mattina alle 11 lo stesso sodalizio e l'amministrazione comunale deporranno un mazzo di fiori accanto al murales che ricorda Caruana nella cabina dell'attesa degli autobus di via Dante Alighieri. Il progetto Trieste Abbandonata, che dal 2015 punta l'attenzione sui luoghi in disuso di Trieste e del Friuli Venezia Giulia per raccontarne la storia e sollecitare interventi di riutilizzo, torna con una nuova mostra dal titolo Metamorfosi, la rinascita dall'abbandono, incentrata su immobili rimasti chiusi a lungo e che sono stati oggetto di interventi di sistemazione. L'esposizione sarà inaugurata oggi alle 18.30 a Trieste nello spazio di Hangar Teatri e sarà visitabile fino al 13 novembre. Il film documentario Tiziano Terzani, Il viaggio della vita, diretto da Mario Zanot, sarà presentato questa sera alle 20 in anteprima al Cinema Visionario di Udine. Saranno presenti il regista e la moglie di Terzani, presidente del premio a lui intitolato, Angela Staude. Penultimo appuntamento a San Giovanni in Tuba per la 36esima edizione del festival Note del Timavo. Il concerto proposto sarà dedicato al vincitore del concorso Talento Contemporaneo 2023, il fisarmonicista cosentino Luigi Gordano, che si esibirà con un programma di musiche di Bach, Rachmaninov, Kusiakov e Grünfeld Strauss. L'arte della liuteria, dagli abeti di risonanza al suono degli strumenti ad arco. Il titolo dell'incontro di oggi, del cartellone dei lunedì dello Schmidl, il ciclo di approfondimenti per i cultori della musica e del teatro, inizia alle 17.30 a Palazzo Gopcevic a Trieste. Il trio Pantum salirà stasera sul palco del teatro Don Bosco di Pordenone con l'orchestra giovanile Filarmonici Friulani e l'attore Antonio Veneziano per un concerto ispirato al romanzo Moby Dick, a cui seguiranno brani storici e contemporanei di Janacek e Rutter. Appuntamento alle 20.45. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del nostro giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con la rubrica in friulano che parlerà dei primi 25 anni del registro dei tumori in Friuli Venezia Giulia. In un quarto di secolo le percentuali di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi sono aumentate per tutti i tumori registrati. Nostro ospite Marco Catania, del direttivo della Lega Italiana per la lotta contro i tumori del Friuli Venezia Giulia. Alle 11.20 circa andrà in onda Peter Pan, la giovanissima velista Marta Benussi, vincitrice su Arca della 55esima edizione della Barcolana, sarà l'ospite per raccontare del suo amore per la vela e il mare. Assieme a lei papà Furio ritornerà bambino quando iniziava a muovere i primi passi sugli Optimist. Parleremo poi di coraggio con una bella storia raccontata da una ragazza di 15 anni volontaria al Festival del Coraggio appena concluso. Alle 11.55 andrà in onda Sentieri dell'Arte, da Venezia alla Dalmazia, un programma di e con Paola Bonifacio. La puntata di oggi è dedicata a Vittore Carpaccio tra Venezia e l'Istria. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Ed è tutto per questo nostro primo giornale radio. In redazione ha collaborato Manuel Bussani, per la parte tecnica in regia Mauro Cumin e Tommaso Vinoni, da parte di Elisabetta Zaccolo e da Daniele Lettig. In studio l'augurio di una buona giornata e grazie per averci ascoltato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.